Se dovessi partire con una battuta, come a me piace fare, per spiegare perché nasce questo comitato, questa fondazione Etica e Sport, nasce da una constatazione e rubo la citazione ad un mio amico giornalista, secondo il quale, io sono d'accordo con lui, gli italiani sposano le regole ma vanno a letto con le eccezioni. Questo per dimostrare come il senso del rispetto appunto del fair play, della correttezza in ogni campo della vita, almeno nelle nostre latitudini, non sia molto praticato. Allora noi abbiamo pensato che fosse giusto che sul terreno particolare dello sport si prendessero delle iniziative volte a valorizzare invece questa parte, che è una parte essenziale, che è appunto il rispetto della regola, non intesa nel senso formale, non intesa nel senso burocratico, ma proprio intesa come l'applicazione di quella che deve essere una filosofia di vita, una filosofia che vale sul campo di gioco, quale che esso sia, ma che vale poi nella vita, soprattutto di relazione quotidiana. E da qui quindi la creazione di questa fondazione, il fatto che dentro questa fondazione abbiamo messo tante competenze diverse da quelle del campione dello sport, ormai ritirato ma ancora, come dire, ancora pieno di quella che è l'energia vitale di chi è stato un atleta, al dirigente sportivo, all'amministratore pubblico, al giurista che è appassionato di sport e quindi anche delle regole, al giornalista e così via. E soprattutto lo scopo nostro è quello di trasmettere, a me non piace usare grandi paroloni retorici, ma trasmettere comunque dei segnali, dei messaggi e dei valori attraverso delle iniziative che non siano dalla cattedra in cui tutti più o meno siamo bravi a parlare, ma che siano dalla ringhiera a cui ci appoggiamo sperando di non cadere, come il mio amico Giorgio Viglino ebbe a fare non tanto tempo fa in un bar di Piazza Vittorio, crollando clamorosamente a terra dalla sedia. Da uno del Toro ci si aspetta questo e Caduto dalla altro. sedia, beh, rimasto stupendo. Quindi l'idea è quella di abbinare questa filosofia di vita e di sport a delle cose belle, simpatiche, coinvolgenti, come il film di questa sera, come degli spettacoli musicali, come degli spettacoli teatrali, come anche iniziative all'interno del mondo scolastico, per esempio. Quindi noi speriamo che questo tipo di messaggio passi, che arrivi soprattutto alle famiglie, che arrivi ai giovani, che arrivi a chi amministra la cosa pubblica e che possa dedicarsi invece che a diciamo, organizzare divertimenti più privati, a organizzare dei passatempi più utili, ma non sono stato neanche troppo esplicito, No, per far stare meglio tutti e in questo senso. L'invito a chi è in questa sala anche è quello di dare il proprio contributo alla nostra fondazione. Troverete i vari documenti, le varie carte della fondazione e noi siamo ben contenti di ricevere l'aiuto, il consiglio, il suggerimento di tutti. Grazie e buon divertimento. Grazie a tutti.